America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Hi everybody. My number one priority as president is doing whatever I can to create more jobs and opportunity for hardworking families. But we need to keep going to create more good jobs and give middle class families a sense of security. Il presidente Barack Obama, lo avete sentito, ottimista, soprattutto dopo il dato sull'occupazione di qualche giorno fa, un dato che ha rassicurato rispetto a un dato meno soddisfacente per l'andamento del terzo trimestre dell'economia americana, che aveva mostrato una crescita dell'1,5%, quindi al di sotto delle aspettative. Ho con me ai microfoni di America 24 per discutere del contesto della crescita, delle prospettive di crescita, della tenuta americana, dei problemi che abbiamo a livello internazionale, il professor Mario Deaglio dell'Università di Torino. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dunque, qualche giorno fa ho dato un quadro della posizione americana al G20 e soprattutto di quella che sarà l'agenda al G20. Ci sono due o tre tematiche fondamentali. Beh, di fondo la crescita globale, che sembra stia rallentando. Ma per identificare il problema, il problema è quello della domanda. C'è una domanda che non riesce a ripartire nonostante, per esempio, ci siano stati in America degli stimoli molto forti l'economia. Adesso la domanda in America per ora tiene, però anche in America abbiamo visto un rallentamento della crescita. Perché, secondo lei, c'è questo problema della domanda? Larry Summers dice che siamo in una fase di problemi secolari. Perché questo flusso di liquidità che molto volenterosamente molte banche centrali riversano nei sistemi economici, per la parte maggiore non prende la strada dell'economia ma quella della finanza, quindi scivola sulle imprese che vogliono investire eccetera eccetera e finisce invece in prodotti derivati e altre cose di questo tipo. Ecco, e allora come si può correggere questo flusso? Il problema è nel sistema creditizio, in quanto le banche continuano a essere banche uniche che possono fare tutto. Allora, tra prestare i soldi a un privato che rischia di fallire e mettere la stessa quantità di denaro dentro a un fondo che garantisce in maniera abbastanza razionale un reddito più alto, le banche scelgono di metterlo nella finanza. Ecco, qualcuno dice che questo tutto sommato non è poi così male, perché la stabilità e la solidità del sistema bancario è importante e dunque c'è stata una fase in cui le banche hanno dovuto rafforzare le loro posizioni di capitale, lo hanno fatto proprio utilizzando questi strumenti. Secondo lei era un passaggio importante oppure forse siamo alla fine di quel passaggio e dobbiamo pensare ad altro, oppure anche quel passaggio era inutile? Ma direi che anche questo passaggio è inutile, soprattutto dobbiamo farci qualche domanda un po' riservata sulla salute delle banche. E non parlo in questo caso, sia chiaro, di banche italiane che sono tutto sommato fuori da un certo giro di grandissima finanza. Parlo di altri tipi di banche dove ci sono delle esposizioni su questi titoli derivati che sono al di là di quello che è ragionevole in qualunque modo noi vediamo le cose. Parliamo di commercio. Come vede il TTIP? Lo vedo abbastanza problematico, perché il problema non è quello che ha detto lei di liberalizzare il commercio. Il commercio come tale è già abbastanza liberalizzato. Infatti qualunque previsione dà che questo migliora la situazione su 10 anni di uno 0, qualcosa. Il problema che c'è sotto è come si regolamentano i rapporti tra le multinazionali e i governi nazionali. Quindi sta in un organo che verrebbe creato, che mette sullo stesso piano governi e multinazionali quando hanno delle vertenze. Beh, professore, allora con tutto il rispetto che devo anche a un mio professore, perché lo dobbiamo annunciare, io ho studiato economia all'Università di Torino e Mario Deaglio era fra i miei autorevolissimi professori. Però c'è qualche cosa di più, c'è una liberalizzazione dei commerci su molte merci che in questo momento hanno delle tariffe elevate, che in questo momento sono sottoposte a delle regole piuttosto stringenti, che sono delle regole di protezione. Noi stessi reclamiamo, per esempio, che il cosiddetto sounding, Italian sounding, sia penalizzato e su quello si sta litigando. Quindi non è soltanto il contenzioso fra le multinazionali che portano magari un governo davanti a una corte internazionale per dire tu su questo mi devi dei soldi oppure dobbiamo metterci d'accordo. C'è comunque un paniere molto più ampio, o no? Ma mica tanto, mica tanto. Allora, we agree to disagree, come si dice. Sì, in quanto sì, ci sono questi settori protetti, però quando poi si vanno a sommare sul totale del commercio fa molto poco. E su questo gli americani sono a quanto pare disposti a cedere abbastanza, purché invece venga mantenuto questo principio di, come dire, di uguaglianza giuridica quasi tra una multinazionale e un governo nazionale, che già esiste in un certo modo. Ma perché sarebbe sbagliato? Cioè, qui in America, per esempio, una qualunque azienda porta il governo in tribunale e vanno, perché il governo non è lo Stato supremo che quindi attenzione, ha sempre ragione, il governo è una controparte. Certo, attenzione, in America dentro lo stesso Stato, ciascuno Stato ha delle regole per questi contenziosi. Il problema è quando l'impresa non appartiene a questo Stato, ma è di un altro Stato e interviene contro lo Stato. Citiamo un caso europeo, c'è un'impresa elettrica norvegese che si chiama Vattenfall, che è una delle più grosse del mondo, che ha citato la Germania perché la Germania fa un programma di riduzione e abolizione definitiva dell'energia nucleare, argomentando che loro avevano investito in Germania per fare questo e quindi non va da un tribunale tedesco, va una specie di organo di mediazione eccetera che già esiste. Beh, come c'è il tribunale dell'AIA per i diritti. Ecco, qualcosa del genere. Sì. Il fatto è che a quello che si sa, perché poi un'altra delle particolarità è che queste negoziazioni sono coperte da un enorme riservo, il tribunale che si farebbe ha una composizione che non è al di sopra di ogni sospetto, cioè sono in gran parte avvocati che hanno avuto queste imprese come clienti in passato. Insomma. Allora, dovendo andare al G20, se lei dovesse dare un consiglio ai capi di Stato e di Governo, fate 1, 2 e 3, cosa direbbe? Fate 1, 2 e 3, la prima cosa che direi, sa cos'è? Parlatevi di più. Questo vale soprattutto per le banche centrali. Non sta da nessuna parte che oggi una banca centrale sappia cosa ha fatto l'altra leggendolo sul giornale o vedendolo da un'agenzia. Questo è veramente, diciamo così, l'egoismo, o se volete, in un mondo dove l'economia globale sta un pochino franando, e su queste cose qui. Allora, chiariamo per chiudere. Lei è a favore dell'internazionalizzazione, del dialogo, dell'economia globale, della caduta delle barriere, però fatta con, diciamo, serietà da una parte e cognizione di causa dall'altra. Assolutamente sì. E poi già vedere cosa vuol dire serietà e cognizione di causa, su questo potremmo discutere, però in linea dei principi assolutamente sì. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, il professor Mario De Aglio, economista, una canzone da proporre ai nostri ascoltatori. Ma la canzone che vorrei proporre è un tentativo di ritornare all'ottimismo in questo mondo in cui, come si diceva in inizio di trasmissione, le previsioni sono sempre più basse, si litiga facilmente, eccetera. E quindi è la canzone classica di questo ottimismo generale, che è We Shall Overcome. Supereremo le difficoltà. We Shall Overcome. John Baez? John Baez. We shall. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!